Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Fra poco, dopo i titoli, incontreremo un signore con il quale i rapporti sono molto complessi. Benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Mebius. Fondamentale amico, ma anche pericoloso nemico, è la doppia natura del sistema immunitario. Un cervello in fuga è rientrato. È una giovane ricercatrice che ha ricevuto 1,5 milioni di euro per studiare la fotosintesi. Fragole e laser, nuove tecnologie per l'industria agroalimentare. Si chiama GAR, è il nodo centrale dei server che coordinano internet in Italia. Quali sono i progetti futuri? Ne parliamo con il direttore. Compravendita di oggetti spaziali. C'è anche chi si precipita a recuperare quelli che cadono a terra, ma questo mercato è quasi tutto illegale. Incontro con il sistema immunitario e con l'immunologia, che è la scienza che lo studia. Questo incontro ci sarà a Roma lunedì prossimo, 28 novembre, presso il Teatro Studio Auditorium, Parco della Musica. È uno dei tanti incontri organizzati dalla Fondazione Sigma Tau. E questo incontro avrà come attori, interpreti, Alberto Mantovani, che è direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas qua a Milano, e poi è immunologo presso l'Università degli Studi di Milano, dove è anche docente di patologia generale. E Alberto Mantovani è qui con me questa sera. Buonasera Mantovani. Buonasera. Io fra poco vorrei chiederle che cosa vuol fare e sta facendo la ricerca su questo personaggio così cruciale per la nostra vita, che è il sistema immunitario. Lo definisco personaggio per il semplice fatto che, insomma, ha una sua autonomia. Per noi è assolutamente fondamentale, ci è assolutamente amico per svolgere delle funzioni cruciali. Allo stesso tempo ha anche un altro volto, perché è in grado di crearci non pochi problemi, però purtroppo mi pare, no, che le due cose sono assolutamente non separabili. Le due cose sono strettamente connesse. Il sistema immunitario ha due parole chiave che sono riconoscere e comunicare, e quando sbaglia il riconoscimento o quando sbagliano i sistemi di comunicazione abbiamo dei problemi, e a volte problemi molto gravi. Possiamo fare qualche esempio. Vediamo, per esempio. Dal punto di vista del riconoscere, il nostro sistema immunitario deve riconoscere innanzitutto noi stessi dal mondo esterno. Quando sbaglia a riconoscere e attacca noi stessi, abbiamo le malattie autoimmuni. Ancora, uno dei problemi centrali del sistema immunitario è riconoscere i buoni dai cattivi. Noi siamo abitati da più microbi di quante non siano le nostre stesse cellule. Per esempio, nel nostro intestino abbiamo 3 trilioni di microbi di 160 specie diverse. Insomma, è un intero pianeta gigantesco, molto più grande di quello che noi abitiamo. Certo. Assolutamente. Quando ad esempio il nostro sistema immunitario non riconosce i buoni dai cattivi e dirige le sue armi, per esempio contro sostanze innocue, come è il caso dell'allergia, colpiamo per esempio dei pollini che sono assolutamente innocui. E infine ci sono situazioni in cui il sistema immunitario viene corrotto. È il caso dei tumori, in cui il sistema immunitario viene addormentato o addirittura corrotto ad aiutare la crescita tumorale. Dal punto di vista della ricerca, a che punto siete per fare qualcosa di diverso, qualcosa di più per gestire questo sistema immunitario? Quali sono gli orizzonti più interessanti? Ci sono grandi sfide che abbiamo davanti a noi, che sono sfide di conoscenza e di trasferimento alla clinica. Una prima sfida è costituita dalla memoria. Il sistema immunitario ha memoria, tutti più o meno lo sappiamo. Quando siamo vaccinati contro alcune malattie, per esempio la poliomielite, non ci ammaleremo mai di poliomielite. In altri casi invece la memoria è di breve durata. Capire la memoria è fondamentale per generare vaccini di nuova generazione. Quindi questa è una prima sfida. Una seconda sfida è costituita dagli errori di riconoscimento, quindi le malattie autoimmuni. Qui capiamo molto poco, abbiamo imparato a controllarle molto meglio, identificando i segnali di comunicazione dell'immunità. Dobbiamo imparare a capire i meccanismi che scatenano le malattie autoimmuni. E infine dobbiamo imparare a utilizzare meglio le armi dell'immunità. Si sta avverando un sogno, che è quello di usare ad esempio gli anticorpi contro il cancro, un sogno vecchio di 100 anni. Ecco, noi stiamo imparando a fermare i poliziotti corrotti che aiutano il cancro invece di fermarlo e a rieducarli contro i tumori. Forse questa, in conclusione, le chiedo brevemente, è una delle aree di ricerca che ha a che fare con uno dei fenomeni più complessi, credo, che esiste in natura, no? Il sistema immunitario è stato avvicinato per complessità al sistema nervoso centrale, quindi ha una complessità molto grande. Noi amiamo pensare al sistema immunitario con due metafore, cioè una è quella dell'orchestra, perché quando funziona correttamente ci dà armonia. L'altra metafora è quella dell'esercito, è una struttura gerarchica, ben organizzata, con difensori di prima linea e con sistemi di comunicazione. Grazie Alberto Mantovani, ricordo che l'appuntamento romano lunedì 28 novembre al Teatro Studio Auditorium, Parco della Musica, alle 11, ci sarà anche Gilberto Corbellini, chiacchiererete insieme. Gilberto Corbellini appare, è presente spesso nelle nostre trasmissioni ed è uno storico della medicina. Grazie ancora Mantovani e buon lavoro. Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti con i cellulari perché c'è il quiz. Un astronauta americano ha cercato di vendere, ecco, che cosa ha cercato di vendere? Una macchina fotografica usata durante una spedizione lunare, e ci scriverete Luna. Un sassolino lunare, ci scriverete Sasso. Oppure un guanto della tuta usata durante le attività extraveicolari, e ci scriverete guanto, come sempre, con un SMS a 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana, Il nano mondo che verrà verso la società nanotecnologica, scritto da Federico Neresini ed edito dal Mulino. Questo libro è offerto da librerierizzoli.it e la soluzione del quiz la sentirete fra poco, perché parleremo appunto di astronauti che vendono pezzi delle missioni. Elisabetta ritorna e che cosa fa? Studia la fotosintesi. Sì, ritorna la dottoressa Elisabetta Collini, sì. Ritorna in Italia, un cervello che fu in fuga ma che è tornato per dare appunto pregio della sua ricerca sulla fotosintesi, ritorna in Italia con un bel gruzzoletto, perché gli è stato affidato 1,5 milioni di euro per costituire un laboratorio che appunto studierà in particolar modo la prima parte della fotosintesi. Però direi di chiedere a lei, visto che è tornata, ed è qui con che noi. Cosa ha in mente. Buonasera Collini. Buonasera a tutti, buonasera. Ecco, ci dica, allora, lei ha avuto una lunga esperienza all'estero, in Canada se non sbaglio, però, sì, ha deciso, però ha deciso di cogliere la parte più importante del suo lavoro nel suo paese. Brava. Sì, esattamente. Io mi sono laureata, ho fatto il dottorato, diciamo, a Padova. Dopo aver passato, ho passato un paio d'anni appunto a Toronto, in Canada, per in qualche modo allargare la mia formazione, allargare quelli che erano i miei orizzonti, insomma, e quella che era la mia preparazione scientifica, e dopo questi 2 anni passati fuori ho deciso di ritornare in Italia perché credo che si possa fare dell'ottima ricerca anche qui in Italia, e quindi è giusto, insomma, in qualche modo riportare qui quello che si impara e quello che si guadagna con i periodi all'estero, insomma. E i fondi che ha a disposizione le sembrano sufficienti adesso? Sì, questo finanziamento europeo è un ottimo finanziamento che mi garantirà di poter fare ricerca per i prossimi 5 anni in modo abbastanza agevole, quindi questo è senz'altro uno dei migliori finanziamenti che sono a disposizione oggi nel panorama, diciamo, italiano e europeo. In effetti, in direi effetti. Proprio. E poi non abbiamo ricordato che la dottoressa, non è bello da dire, però ha 32 anni, già, di solito non si dice per galanteria, però è giovanissima, questo volevo dire, e sarà a capo appunto di questo laboratorio. Che ha quale finalità? attività. In questi 5 anni che cosa farete, Collini? Allora, il progetto ha come scopo finale quello di studiare il primo step della fotosintesi naturale, cioè il processo di cattura dell'energia e il suo successivo trasferimento nei posti dove questa energia viene poi trasformata in energia, vuoi elettrica, vuoi chimica. Tratterà di studiare come questa energia viene catturata e trasportata, non tanto in sistemi naturali biologici, quanto in sistemi artificiali che in qualche modo copino i sistemi ad alta efficienza che si trovano in natura. L'idea è quella di poter in qualche modo utilizzare la natura come un elemento da copiare artificialmente per la creazione di sistemi artificiali di cattura dell'energia. Cioè lei dice se il primo pezzo della fotosintesi, ecco, da quel primo pezzo poi togliamo l'albero, gli mettiamo qualcos'altro, riusciamo a usare questa cattura di energia per scopi nostri. Esattamente, sì, l'applicazione è quella più immediata che salta subito in mente, è per esempio la fotovoltaica. Uh-huh. Pur io non occupandomi direttamente di fotovoltaica, comunque la mia ricerca di base ha proprio lo scopo di capire come sia possibile attraverso appunto sistemi artificiali catturare in modo efficiente l'energia solare. Ci sia qualche meccanismo in particolare che rende la cattura dell'energia da parte di sistemi naturali così efficiente e così raffinata. L'impegno è ardito e nel vostro laboratorio ci sarà anche un macchinario ad altissima tecnologia che vi darà una mano. È un laser ultraveloce, giusto? Sì, ci può raccontare, magari sarà difficile parlarne in termini tecnico, però di che cosa si tratta per farci capire? Sì, diciamo che il cuore del progetto è la realizzazione di un setup che prende il nome di setup per spettroscopia elettronica bidimensionale. Fisicamente per fare questo tipo di misure serve un laser, come ha detto giustamente lei, ultraveloce. Ultraveloce significa che gli impulsi di luce che questo laser è in grado di produrre hanno una durata temporale di 100 femtosecondi, quindi vuol dire un milionesimo di miliardesimo di secondo. Nulla. Naturalmente poi questo laser va chiaramente, la luce da questo laser va chiaramente utilizzata in quello che noi chiamiamo questo setup ottico, che è in grado di svelarci i tempi, i modi e i tempi con cui l'energia viene luminosa, viene assorbita, viene catturata e poi trasportata, che è quello appunto di cui parlavo prima. Perché questo, lei ci sta dicendo, è quello che avviene in natura, cioè la trasformazione di luce in energia ha queste velocità negli organismi naturali? Sì. Parliamo di tempistiche, avevo detto, ultraveloci, perlomeno nel primo step, cioè la cattura dell'energia e il suo trasporto verso i cosiddetti centri di reazione, insomma. Da cui poi partiranno la serie di reazioni fotosintetiche che però lì hanno altre scale dei tempi, Collini, approfittiamo della sua preparazione perché sì. Pochissimi giorni fa è uscita una notizia, precisamente è stato pubblicato su Science un lavoro dei suoi colleghi al MIT di Boston, in cui si annunciava appunto la creazione di una foglia artificiale. Che cosa significa? Era stata ricreata una foglia completamente artificiale in cui si riproduceva la fotosintesi e quindi anche la produzione di energia completamente artificiale, e sembrerebbe che l'efficienza sia buona. Ora le chiedo, che differenza c'è? I due lavori sono sovrapponibili o in qualche modo sono due cose completamente diverse o un aspetto uno dell'altro? Diciamo che il mio lavoro e il lavoro del professor Nocera dell'MIT sono due lavori che partono dalla stessa osservazione, cioè la fotosintesi in natura è il processo più efficiente che noi conosciamo per trasformare energia solare in energia utilizzabile. Oramente il professor Nocera si occupa del secondo step della fotosintesi, cioè come trasformare, come l'energia solare viene poi trasformata in energia, in questo caso elettrica o chimica. Io mi occupo della prima fase della fotosintesi, cioè come l'energia viene efficacemente catturata per poi essere utilizzata nel cosiddetto splitting dell'acqua, perché quello che fa la foglia artificiale, proposta dal professor Nocera, è catturare questa energia e tramite l'utilizzo di opportuni catalizzatori fare il cosiddetto splitting dell'acqua, che è appunto la trasformazione dell'acqua in anidride carbonica e elettroni utili per poi produrre corrente elettrica. Quindi in realtà i due lavori partono dalla stessa osservazione, che appunto la fotosintesi è un meccanismo estremamente affascinante, estremamente efficace ed efficiente, però appunto si occupano di due step diversi di questo processo. Senta Elisabetta, ma la fotosintesi maneggia piccole quantità di energia, però per esempio certo se questa arriva distribuita su migliaia di foglie di un albero, certo, il tutto è efficiente. Consistente. Per proporla come energia alternativa, voi dovete pensare di capire il meccanismo iniziale e poi cercare di incrementarlo, di alimentarlo, cioè di farlo diventare più potente, oppure vi basta quell'energia lì? Ecco, diciamo che lo studio di cui mi occupo io sono studi di base, quindi in realtà il mio scopo sarà dimostrare il principio. Cioè come è possibile in qualche modo controllare questa cattura di energia e in qualche modo renderla più efficiente attraverso opportuni meccanismi, opportuni strutture molecolari. Come poi questi studi di base possono essere trasportati su larga scala, effettivamente è un problema non da poco, che però credo riguarderà più i miei colleghi, diciamo ingegneri, da questo punto di vista. Non è esattamente, insomma, lo scopo della mia ricerca. Certo. E del resto però abbiamo visto in molti casi, no, Chiara, che delle energie anche minime, ma che per esempio si possono distribuire con una vernice su intere facciate di palazzi, ci danno potenze assolutamente interessanti. Quindi certo, probabilmente certo, finirete lì. Sì. Sì, una volta trovata per esempio l'architettura molecolare che garantisca appunto un processo molto efficiente, sarà possibile creare per esempio dei film, penso per esempio a dei polimeri colorati da applicare, che ne so, a superfici tipo finestre o tetti, cose di questo tipo. Quindi credo che il passo poi non sia così lungo, insomma, ecco, dal principio base a poi la successiva applicazione su larga scala. Allora in bocca al lupo, Collini. Crepi, grazie mille. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci qua con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao Federico, ciao a tutti. Come sempre da Boston, fragole e laser, anzi, laser e fragole, perché so che sarà questo l'ordine delle cose che ci devi dire. Sto pensando, Paola, a questa immagine magnifica che abbiamo delle spade laser nei film come Guerre Stellari, e invece qui finiamo tra le mele, i prosciutti e una roba del genere con il laser, no? Di cui mi stai per raccontare. Sì, un'applicazione molto più benefica, oserei dire. Che cos'è? Come funziona? E allora, si tratta di un modo per controllare se il cibo in un pacchetto è andato male oppure è ancora buono senza aprire il pacchetto. E come si fa? Si usa un fascio laser, per l'appunto. Ma non è chiaro. No, non è chiaro. Allora, bisogna prendere un raggio laser e lo si fa passare attraverso il prodotto. E anche i pacchetti, diciamo, tutti i pacchetti in generale lasciano passare un pochino di luce. Anche i pacchetti con l'alluminio hanno delle parti che lasciano passare il fascio laser. Ho capito. A questo punto la luce del laser sbatte contro, ad esempio, le molecole di ossigeno che ci possono essere nel pacchetto. E quando sbatte contro queste molecole perde energia, cambia direzione e il fascio uscente riporta l'informazione del pacchetto che ha attraversato. Quindi c'è un fascio laser che viene lanciato da un certo punto, poi c'è il pacchetto del cibo, e però di là c'è qualcosa che riprende il fascio e vede che cambiamenti ha nella sua struttura, una roba così? Esattamente, e in particolare questo fascio è calibrato in modo da misurare la quantità di ossigeno nel pacchetto. L'ossigeno è un indicatore di alterazione, sempre? Eh sì, perché la presenza di ossigeno causa ossidazione e favorisce la crescita dei batteri, quindi è un segnale di avanzamento della decomposizione del prodotto. Il vantaggio qui è che hai tutte le tue confezioni e sai già da fuori se qualcheduna non funziona, insomma. Esattamente, si possono controllare i pacchi di latte, succhi di frutta, de carne, i prosciutti, e si possono sia controllare per sapere se si sono deteriorati in un determinato periodo, e poi si possono anche verificare i metodi di impacchettamento. E chi è che ha inventato questa roba qui? Un gruppo di ricerca dell'Università di Lund. E in particolare questo progetto è la tesi di dottorato in fisica atomica di Marta Levander. Il prototipo in realtà è già anche in commercio. C'è una ditta svedese, la Gasporox, che sta producendo dispositivi basati su questo principio. Quindi se tanto mi dà tanto, fra un po' avremo questo sistema, soprattutto in tutti i grandi supermercati. Mi dicevi che c'è anche un'altra applicazione di questo dispositivo laser. Sì, effettivamente stanno lavorando per utilizzare questo stesso metodo per una diagnosi non invasiva di alcuni problemi medici, come la sinusite, l'otite, e per verificare la funzionalità dei polmoni nei neonati. Qualsiasi problema in cui si vuole misurare la quantità di un determinato gas in una cavità può utilizzare questo metodo di analisi non invasivo. Mi sembra che il collegamento Skype sia buono e quindi direi continuiamo e parliamo di fragole. Parliamo di fragole e dalla Svezia ci muoviamo all'Inghilterra. Questa è una ricerca capitanata da Richard Dudley del National Physical Laboratory ed è un metodo per capire se le fragole sono mature utilizzando dei robot. Che mangiano fragole? No, che i robot speriamo che non se le mangino ma le raccolgano. E cosa? Non capisco, spiega. Allora, uno dei problemi nella raccolta di frutta e di vegetali è quello di capire se il frutto o la verdura è effettivamente maturo ed è pronto per la raccolta. Questo gruppo di ricerca ha sviluppato un metodo che fa una specie di fotografia al frutto, analizza la fotografia e la confronta con dati raccolti in precedenza e decide se, per esempio, la fragola è matura o meno. Cioè il robot confronta una foto nuova con una foto in archivio. Quindi a questo punto, se vogliamo utilizzare dei robot per automatizzare la raccolta delle fragole, possiamo usare questo sistema in modo da aiutare i robot a capire se la fragola è matura o meno. Io ho parlato di un'immagine, ma è più simile a una radiografia. È un'immagine fatta a diverse lunghezze d'onda. Quindi usano lunghezze d'onda come microonde, terahertz e l'infrarosso lontano, quindi energie intorno al microonde, che riescono a penetrare all'interno del frutto. Per cui se si ha, ad esempio, una verdura come il cavolfiore, che inizialmente è coperto dalle foglie, questo metodo funziona perché la fotografia è una fotografia fatta all'interno, attraverso il corpo del cavolfiore. Non è una fototessera, è un sistema integrato di immagini che sono anche capaci di scendere al di sotto della superficie. Va bene, laser, robot, abbiamo visto un sacco di cose, anche i cavolfiori, non c'è altro per oggi. No, questo è tutto, passo e chiudo. Ciao, alla prossima. Ciao, buona serata a tutti. Non si fa scienza oggi senza conoscenza che viaggia veloce sulla rete. E in ogni paese c'è qualcuno che regola il traffico. Ve lo presenta Barbara Gallavotti. Cosa serve per fare ricerca? Fondamentalmente due cose: cervelli, cioè persone preparate, e fondi. Con i fondi si pagano gli stipendi, si allestiscono i laboratori, eccetera. Ora, in quell'eccetera c'è probabilmente qualcosa a cui non pensiamo mai: mettere gli scienziati in grado di accedere alle risorse di rete con le modalità che servono a loro. E assieme agli scienziati anche tutti coloro che in qualche modo gravitano intorno alla ricerca, quindi anche alcune imprese e gli studenti. In Italia la rete per la ricerca si chiama GAR, ne abbiamo già parlato qui a Mebius ed era alcuni mesi fa, a proposito di una sua applicazione che era molto interessante. Riguardava la possibilità di far suonare insieme musicisti lontani fra loro. In quell'occasione si trattava di un duetto e uno degli esecutori era a Parigi, mentre il secondo era a Trieste. Questa applicazione era pensata per i conservatori, anzi è pensata, ed è molto utile per permettere ai musicisti di fare prove o per dare la possibilità agli studenti di seguire lezioni tenute da maestri lontani. Ora, la rete GAR ha festeggiato il suo 20° compleanno e ne parliamo con Angelo Scribano, che oltre a essere uno dei padri di questa rete è anche presidente del suo comitato tecnico-scientifico. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto, perché la ricerca ha bisogno di reti dedicate? Ha bisogno delle etichette perché è necessario poter scambiare dei dati tra i vari esperimenti, tra i vari ricercatori, una quantità enorme di dati e ad altissima velocità. Io ancora in mente il ricordo alla fine degli anni 60, quando i dati venivano registrati su un nastro magnetico e bisognava trasportare i nastri magnetici da una parte all'altra del mondo per poterli analizzare. La rete permette giusto appunto di trasferire questi dati in tempi brevissimi e in quantità enormi. Però non vi basta una rete normale in qualche modo? Non basta una rete normale perché giusto appunto le velocità delle reti normali sono troppo basse per poter permettere questo scambio veloce di dati e soprattutto la quantità di dati che vengono scambiati e inoltre anche la sicurezza che i dati siano trasmessi bene, perché anche questo è importante, che in qualche modo non si perdano dei bit per strada. La rete è gestita da un consorzio che vede enti di ricerca, università, chi esattamente? Il consortium GAR, che di fatto è un'associazione riconosciuta, fra i principali enti di ricerca, fra cui l'INFN, il CNR e l'ENEA, e tutte le università italiane rappresentate dalla Fondazione CRUI. Beh, quindi i principali enti di ricerca, le università, chi può usare questa rete? Possono usare non solo i soci fondatori di questa associazione, ma anche tutti gli altri enti di ricerca vigilati dal MIUR o anche enti di ricerca non vigilati dal MIUR ma con apposite convenzioni. Ma in certi casi anche alcune imprese? In certi casi anche alcune imprese quando ci sono dei contratti di ricerca fra uno dei soci e quell'impresa lì, ma è un contratto, diciamo, temporaneo perché viene fatto utilizzare la rete solo per la durata del contratto e per quello specifico, per i fini di quello specifico contratto. Pensando alla grande massa degli utilizzatori della rete, le tecnologie che voi usate oppure le operazioni che voi fate per mantenere questa rete GAR hanno delle ricadute che possono riguardare tutti noi? Diciamo indirettamente sì, nel senso che Consorzio GAR di per sé non sviluppa tecnologia nuova, ma si avvale delle tecnologie messe in campo dai vari provider, quale Telecom, Infostrada, eccetera. Fatto che noi abbiamo delle richieste sempre all'avanguardia per la rete della ricerca, fa sì che i nostri provider sono costretti in qualche modo a sviluppare o comunque procurarsi nel mondo tutto quello che è necessario per far sì che la rete risponda alle nostre richieste. Siete in qualche modo un pungolo che fa sì che i provider debbano essere all'avanguardia. Sì, è vero questo. Varie volte è successo che la rete GAR per prima sperimenta, almeno in Italia o forse in Europa, apparecchiature di rete che non sono ancora commerciali del tutto. E questo è un bene, secondo me, per lo sviluppo stesso tecnologico delle apparecchiature di rete. E ora che la rete GAR in qualche modo c'è, che cosa succederà? La utilizzate felicemente? Oppure... La rete GAR è utilizzata, io direi, al 100%, come mostra il continuo monitoring della rete stessa, con dei picchi altissimi e così via. Ovviamente quello che succede è che via via le necessità di trasferimento dati, di utilizzo della rete stessa, per esempio adesso con la grid che usa pesantemente la rete, la griglia di calcolatori diffusa in tutto il mondo. La grid è considerata un po' l'internet del futuro, no? Beh, diciamo è un diverso tipo di internet, perché finora internet ha permesso solo di scambiare email o comunque di visitare diversi siti web o comunque fare acquisti online e basta. La grid permetterà di calcolare e di immagazzinare dati ovunque nel mondo e questa è una cosa importantissima. Cioè, il fatto stesso che io posso sottomettere un programma di analisi di dati non fatto sul mio calcolatore, ma lo sottometto e poi non so quale calcolatore nel mondo, quelli con cui io sono in griglia, giusto appunto, me lo calcolerà e mi darà i risultati, questa è una cosa molto innovativa. Certo, e quindi voi vi dovrete in qualche modo adeguare? In qualche modo, giusto appunto, la rete dovrà adeguarsi. La rete non è una cosa statica. Lei ha detto che adesso avete la rete. La rete in realtà non è un oggetto che uno ce l'ha e basta. È una cosa molto dinamica, quindi addirittura di giorno in giorno la rete cambia. Ci sono nuovi collegamenti, ci sono nuove dorsali, ci sono nuove apparecchiature di rete e vengono sostituite le vecchie, quindi è in continuo adeguamento. E questo continuo adeguamento chiaramente viene dalla richiesta degli utilizzatori. Viene. Allora, buon compleanno GAR e grazie ad Angelo Scribano. Grazie a lei. Nella collana Beautiful Minds, la scienza raccontata dagli scienziati, la troverete in edicola questo weekend e poi per tutta la settimana, con il Sole 24 Ore, in questa collana ritorna James Watson, il biologo che insieme a Francis Crick individuò la doppia elica nei primi anni 50 del secolo scorso. Watson questa volta, in una puntata precedente ci parlò della sua scoperta della doppia elica, questa volta parla dei primi lavori che seguirono quella scoperta, ovvero la nascita della ricerca sul genoma umano. Sentiamo l'inizio del suo racconto. Una volta decifrato il codice genetico, ciò che ovviamente si voleva scoprire era quale fosse la sequenza effettiva delle basi in una molecola di DNA. Il genio dietro allo sviluppo di questo metodo fu il biochimico Fred Sanger dell'Università di Cambridge. Quando io e Francis Crick scoprimmo la doppia elica, Fred era a Cambridge e più o meno nello stesso momento pubblicò la prima sequenza di una catena polipeptidica, la sequenza di amminoacidi nell'ormone proteico dell'insulina. In quegli anni iniziò infatti la lunga corsa che nel 2000 portò con le ricerche di Craig Venter alla conoscenza completa del genoma umano. E da quel momento, grazie alle tecniche messe a punto per ottenere questo risultato storico, si è iniziato a sequenziare anche i genomi di altri animali, scoprendo con molta sorpresa che quello della nostra specie non è poi così speciale dal punto di vista quantitativo. Piccoli animaletti, la cui vita è straordinariamente più semplice, diciamo così, della nostra, hanno su per giù lo stesso numero di geni. La vita quindi è qualcosa di molto più complesso di quanto si pensava e James Watson lo spiega nel suo racconto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è la crisi. Vabbè, non so se è solo per il tempo di crisi, ma non saprei. Cioè, se tu avessi un pezzettino di luna, un sassolino, non lo venderesti? Ti dico la verità, se fossi andata lì e me lo fossi portata io, non credo che lo venderei. Avresti difficoltà. C'è tutto il valore affettivo che credo non sia monetizzabile. Eccoci qua con Patrizia Caraveo. Buonasera Patrizia. Buonasera. Buonasera. Astrofisica, ma qui in veste di, come si può dire, commentatrice di storie di tecnologie contemporanee. Di storie spaziali. Sì, ma di storie dal punto di vista culturale, no Patrizia? Perché qui noi abbiamo fatto il quiz poco fa, nel quale chiedevamo agli ascoltatori, un astronauta americano ha cercato di vendere che cosa? Abbiamo detto una macchina fotografica, un guanto e un pezzettino di luna. E cos'è che ha cercato di vendere? È successo davvero. È successo davvero. Sì, si tratta di Ed Mitchell, che ha volato sull'Apollo 14, ha passeggiato... è stato parte dell'equipaggio quando, diciamo, il modulo lunare si è ricongiunto con la navicella che girava in orbita intorno alla Luna, recuperando materiale che c'era all'interno del modulo lunare, che poco dopo sarebbe stato rilasciato e sarebbe ricaduto in modo distruttivo contro la superficie lunare. Recuperò una macchina fotografica che si è tenuto fino adesso e adesso non so per quali motivi aveva deciso di mettere all'asta, cosa che non è piaciuta per niente alla NASA, che nonostante si trattasse di un suo ex impiegato, poi una persona diciamo di grande notorietà, perché tutti gli astronauti della missione Apollo chiaramente fanno parte dell'immaginario collettivo americano, gli ha chiaramente detto che sarebbe andata in causa con lui. Ecco, poi è un astronauta appunto che avrà anche una sua bella pensioncina, cioè non è che ci immaginiamo proprio uno ridotto male. No, sicuramente no, ma adesso io non so per quale motivo, magari lo voleva vendere per poi darlo in beneficenza, gli astronauti spesso vengono usati come testimonial. Sì. In quel caso forse sarebbe quasi giustificabile, ma scusi, quanto costano questi feticci tentava di venderlo a quanto? Non ne ho idea, devo dire onestamente, perché quello che è arrivato poi nel giro delle news è il fatto che l'astronauta poi ci ha rinunciato e ha ridato alla NASA questa preziosa camera, diciamo questa macchina fotografica, che peraltro se lui non avesse preso sarebbe a questo punto un rottame sulla Luna. Eh già, ma è vero che pezzi di spazio insomma ci sono proprio su eBay anche? In effetti a questo punto la NASA ha scatenato una campagna molto focalizzata per cercare di recuperare tutto ciò che viene messo pubblicamente in vendita, perché quello che è successo è che gli astronauti, ricordiamoci, hanno portato a casa circa 200 kg di sassi lunari. Ah beh, quindi... sono stati distribuiti in tutta una serie di laboratori, anche in Italia per esempio ci sono diversi frammenti lunari che sono stati e continuano a essere studiati. Buona parte di questi 200 kg è ancora in possesso della NASA, in speciali camere pulite, casseforti, perché l'idea è sempre che magari riusciamo a sviluppare delle tecniche più raffinate, bla bla bla. Ma poi per questioni di così public outreach, di pubblicità, eccetera, la NASA stessa aveva preparato un numero indeterminato di campioncini che venivano messi in specie di piccole contenitori tipo moneta, trasparenti, eccetera. Da regalare, yes. Venivano regalati a tecnici, a ricercatori, a ingegneri. Venivano no? regalati ai capi di Stato, venivano regalati ai tecnici probabilmente che andavano in pensione, a quelli che andavano in visita, ai laboratori, eccetera. E quindi la probabilità che questo tipo di campioni sia finito su eBay non era proprio bassissima. Ma no, perché la gente, poi a questo punto molte di queste persone magari sono anche morte, le mogli, i figli, nipote se li vende, ne ha fatto man bassa. I cassetti trovano questi cosini e dicono ma magari hanno un valore. E cercano di venderli e vengono azzannati più o meno dall'FBI che certo. glieli confisca, perché tutto ciò che è venuto dalla missione Apollo è proprietà del governo americano. Giusto. Ma non possiamo fare così una stima di quanto possa costare un sassolino lunare? Più o meno? Sicuramente molto, si potrebbe tranquillamente arrivare a, io direi, almeno 50.000 euro. Allora questo è il motivo, sì. È lì, è un pezzo di mutuo significativo. Ci sono state, perché voglio dire, ci sono dei pezzi di memorabilia lunari che sono proprietà, diciamo, degli astronauti, perché gli astronauti avevano diritto di portarsi avanti e indietro, diciamo, tutta una serie di oggettini e questi sono stati messi all'asta. Ad esempio, mi ricordo la mappa lunare che era stata utilizzata per guidare rover che c'era sulla Luna. Sì. Sì. E quella lì era sporca di polvere lunare, esatto, sì. ed è stata messa in vendita ed è stata venduta credo per ben più di $100.000 come... In beneficenza però? Onestamente non lo so, ma è molto probabile che almeno una buona parte di questi soldi vadano in beneficenza. Sì, ma lei sta riferendosi a quell'asta che c'è stata per il 50° della spedizione lunare, lì effettivamente delle cose sono state vendute? Assolutamente sì, ma evidentemente si trattava di oggetti che erano ritenuti di proprietà degli astronauti. Ecco, in quel caso non si era illegali, cioè non erano di proprietà della NASA, quindi no. Ognuno poteva venderli come preferito. Insomma, è un po' grigia la situazione, va bene. La situazione è decisamente molto grigia, ma siamo assolutamente, secondo me, un po' strano che la NASA, che ha veramente decine e decine di chili di pietre lunari, vada a spendere tempo e soldi per andare a recuperare 3 mg di qui e 2 mg là. Sì, ormai è andata, lei dice. Ormai è andata, ma è chiaramente una questione di principio. Giusto, giusto. Senta Caraveo, invece ci sono dei professionisti del recupero dei pezzi di robe che vengono giù dallo spazio e si schiantano. Queste qui sono delle zone, per esempio, della Siberia. Riesce a dirci rapidamente cosa combinano? E in quel caso matti? Ovviamente è di proprietà di chi lo trova. È lì e chi arriva, arriva. Può no? Arrogarsi il diritto. Sono delle bande, di però molto organizzati. Più che bande direi delle squadre, non delle sono squadre. Delle bande di malfattori. No, voglio dire, ma insomma no, beh, sono abili, veloci. Sono abili, veloci, determinati e molto organizzati. Se qualcuno avesse voglia di vederli all'opera, c'è un documentario molto divertente che si chiama Space Tourists, che è sui turisti spaziali, ma che partono dai Baikonur, ma quando parte una Soyuz da Baikonur, rapidamente la Soyuz espelle i motori laterali, che sono dei cilindri alti diversi metri di metallo, alluminio, titanio, così, metallo estremamente interessante e facilmente commerciabile. E che cade in un certo punto. Che cade in un certo punto. E allora in questo subito. Documentario si vede questa squadra di nerboruti signori che cerca di capire dove sta cadendo il pezzo e dopo si vedono partire questi camion veramente tipo anteguerra, in qualche modo, di tipo abbastanza primitivo, che attraversano la steppa, passano fiumi, eccetera, fino a che non vedono questo cilindrone. E quando vedono il cilindrone succede una cosa buffissima. La prima cosa che fanno è recuperare una specie di pentola che deve essere un bruciatore di questo, per questo qua è un motore, quindi c'ha un bruciatore dentro, e lo recuperano ed è proprio a forma di grande marmitta. È di metallo, non so di che metallo sia, ma la prima cosa che fanno ci fanno la minestra dentro. Benissimo. Ecco perché è il pezzo pregiato. È il pezzo fondamentale, sì. Perché devono tagliare metallo per 2 o 3 giorni e quindi è bene che organizzino un picnic, tanto per cominciare. Ma poi tutto il resto se lo vendono a pezzi, a mercanti di titanio, alluminio e metalli pregiati. Sì. Sì, sembra che vada direttamente in Cina. Questi signori hanno dei contratti con i cinesi che sono interessati a questi metalli. Cioè esiste. Ma è ancora proprio più divertente quello che succede più avanti, in Altai, più a nord, dove cadono i pezzi del secondo stadio. E in quel ci caso sono squadre lì organizzate per ogni fase del lancio. Sì, ma in quel caso lì la cosa buffa è che la regione è più abitata della steppa intorno a Baikonur e quindi ci sono pastori lì in giro che raccattano questi pezzi, ovviamente cercano di non farsi colpire quando cadono, ma li raccattano e ne fanno ovili per le loro bestie, fanno casupole. Cose incredibili. Lì proprio baciati dalla fortuna. Cioè lo smontano, lo utilizzano nel villaggio, negli insediamenti, sì, negli sì. Accampamenti. Assolutamente, voglio dire, sono pezzi di metallo pregiato che cadono dal cielo e loro cercano di utilizzarli. Ci devono essere delle vanghe fatte con leghe di titanio straordinarie da quelle parti. Beh, del resto vuoi lasciarli lì, non lo so. Sarebbe perché buttare via quel ben di Dio, va bene. Patrizia, finiamo qui. So che lei vuol fare un augurio, in conclusione. Sì, perché abbiamo parlato di lanciatori russi. Volevo fare un augurio all'Agenzia Spaziale Russa che in questi giorni sta lottando per salvare la missione Phobos Grunt verso Marte. Sappiamo che la missione in questo momento orbita intorno alla Terra, perché il motore che doveva liberarla dalla gravità terrestre per lanciarla verso Marte non ha funzionato. E quindi tutta l'Agenzia Spaziale sta lavorando per cercare di rivivificare questo motore che non vuol funzionare, e quindi mi sembra giusto fare gli auguri. Va bene, in bocca al lupo allora. Buonasera Caraveo. Buonasera anche a voi. Buonasera. E poi se viene giù il motore che non funziona, ce lo rivendiamo. No, lo utilizziamo come marmitta per la polenta. Per la polenta. Buonasera a tutti. Ci vediamo qui fra 7 giorni.